Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Resta il fronte, da un lato cosa l'Italia può ottenere e a che condizioni dall'Europa, dall'altro iniziano a uscire i primi dettagli, chiamiamoli così, della manovra, o meglio delle riforme e della copertura e dei soldi necessari che ha in mente il neo premier Matteo Renzi. Oggi, come sapete, dai GR24, Renzi è andato a visitare questa scuola alla periferia di Treviso, è tornato sui temi degli investimenti. Già ieri lo aveva fatto nella registrazione per l'intervista a Ballarò, e quindi occorre trovare 60 miliardi dalla Cassa Depositi e Prestiti per coprire, e anche dalle rendite per coprire la riduzione del cuneo. Sconto IRPEF intorno ai 500 euro, ma anche un'ipotesi di un calo dell'IRAP per le imprese. Ancora, in 15 giorni, per quello che riguarda la Cassa Depositi e Prestiti, tutto sarà pronto secondo Renzi. Abbiamo già preparato due emendamenti e questo permetterà appunto di sbloccare i 60 miliardi, che è la cifra di debiti che la pubblica amministrazione ha ancora con le imprese. So benissimo che le cifre circolate sono anche diverse, 110-120 miliardi, però una parte già li aveva rimborsati il governo Letta l'anno scorso, intorno a 18 miliardi, e questi sono i 60 miliardi che arriverebbero attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. Attenzione però su questo, perché c'è una dichiarazione del presidente Bassanini, dice: la cassa ha un ruolo solo sussidiario e di ultima istanza, perché i crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione, una volta garantiti dallo Stato, verrebbero acquistati principalmente dalle banche. Questo come risposta anche a Renzi, che aveva detto, aveva ipotizzato un diverso utilizzo della Cassa Depositi e Prestiti. E poi la riduzione di 10 miliardi del cuneo fiscale, il federalismo fiscale che è definito da Renzi una barzelletta, le società partecipate ai comuni e municipalizzate che vanno diminuite. Questo è il fronte interno. Poi c'è tutto il fronte invece con l'Europa, e lì è sul fronte europeo la strada è stretta, ma come scrive oggi anche il Sole 24 Ore, esiste probabilmente una strada. Cioè, una volta che tu riesci a garantire tutto un insieme di riforme interne, a quel punto puoi anche chiedere all'Europa una diversa lettura, interpretazione anche tempistica sul deficit. Lo dico questo nel giorno in cui, tra l'altro, Renzi ha detto che andrà da Angela Merkel con il Jobs Act pronto. Il presidente Confindustria, poi lo ascolteremo, ha chiesto di negoziare delle deroghe con l'Unione Europea per il rilancio dell'economia italiana, ma nel giorno in cui in realtà il governo ha rinunciato al decreto Salva Roma, il ministro Mariana Boschi, che è ministro per rapporti con il Parlamento, ha detto che arriverà un nuovo provvedimento, conterrà anche le norme sull'Expo e sulla Sardegna. Per quello che riguarda le reazioni, il sindaco di Roma Ignazio Marino ha detto che non sta minacciando le dimissioni, ma vuole sapere qual è la sua job description. Non sono pronto per la job description di commissario liquidatore, nel senso che il Comune di Roma è in bancarotta senza il decreto. Marino ha anche continuato: non si può amministrare Roma in dodicesimi, cioè con piccole misure. Ne parleremo nel corso di questo programma, anche perché ogni giorno, oggi c'è sul Messaggero una notizia ed era ripresa anche nei giorni scorsi, ogni giorno circa 1400 dipendenti dell'ATAC, l'azienda di trasporto pubblico di Roma, restano a casa presentando certificato medico. Allora, io capisco che c'è l'influenza, capisco che l'inverno però è stato mite, ma insomma il 10% della forza lavoro a casa ogni giorno con un certificato medico, vi sono circa 12.000 dipendenti, pensate che su 6.500 autisti ne restano a casa ogni giorno 970. Ora, io non sto attaccando il lavoro degli autisti dell'ATAC e in generale degli autisti, ma non è accettabile immaginare che ci sia un tasso, diciamo, di malattia così alto fisiologico. Su 1.300 amministrativi ogni giorno ne restano a casa 100, su 3.000 operai ogni giorno 300. I macchinisti della metropolitana, dei tram, sono i più presenti, sapete perché? Perché il loro contratto è legato alle presenze. E poi ci sono gli autisti che chiedono l'inabilità alla guida, passati negli ultimi anni da 50 a 607, cioè il 10% di tutti gli autisti ha chiesto l'inabilità alla guida. Allora, io dico una cosa, Sindaco Marino, lei ha ragione nel dire occorre il decreto, quello che vuole, però faccia qualcosa anche sull'ATAC, perché come ha scritto Sole 24 Ore, in 10 anni l'ATAC è costata ai romani 6 miliardi e 400 milioni di euro tra contributi pubblici e perdite, ai romani e agli italiani in generale. In 10 anni non c'è mai stato un bilancio inutile, allora nel chiedere i soldi allo Stato porti anche lei una riforma seria dell'ATAC, a costo di doversi scontrare con i sindacati, e voglio vedere cosa possono obiettare i sindacati quando tu hai 1.400 dipendenti che ogni giorno stanno a casa in malattia. Ne parleremo. Intanto le altre notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Meno 0,40% in questo momento Milano, meno 0,30% Parigi, meno 0,30% anche Francoforte, meno 0,40% Londra, tutte allineate le borse europee. L'America guadagna lo 0,28%, segnalo debole Telecom Italia meno 2,5%, Mediobanca meno 1,60%, Atlantia meno 1,30%, Enel meno 1,1%, Unicredit meno 1% come Azimut, e invece forte ST Microelectronics più 4,50%, Prismian più 3,30%, Unipulsai più 2,20%, Fiat più 1,90, Buzzi Unicem più 1,80, Banco Popolare più 1,70, Autogrill più 1,40, Ferragamo più 0,70%. Intanto da sabato scatterà un nuovo aumento dell'accisa sulla benzina, che è deciso dal decreto del governo Letta, il decreto del fare, e quindi da 728,40 euro per 1000 litri a 730,80, sono 0,24 centesimi al litro. Scusatemi, e 0,34 centesimi per quello che riguarda il gasolio. Per quello che riguarda l'Ucraina, mentre Mosca non esclude manovre al confine con l'Ucraina, e tra l'altro ci sono state queste esercitazioni ordinate da Putin con 150.000 uomini che Putin dice non essere collegate alla crisi di Kiev, ma insomma le parole del presidente russo vanno interpretate, dicevo, interpretate è un eufemismo. La banca statale VTB ha chiuso, una delle maggiori banche russe, ha chiuso i rubinetti con l'Ucraina, non concederà più prestiti a imprese e persone fisiche. Ricordo che VEB, VTB e Gazprom Bank sono esposte per 28 miliardi di dollari con l'Ucraina. Il numero uno dell'autorità per l'energia, Guido Bortoni, oggi ha detto che comunque un'eventuale crisi del gas non preoccupa perché siamo a marzo. Vabbè, capito. Speriamo che il meteo regga così, Bortoni. Ho capito cosa vuole dire lei, ma non è che si può liquidare un eventuale blocco delle forniture ucraine dicendo tanto siamo a marzo. E se arriva per caso un maggio di gelo, che facciamo? Poi segnalo alcune amenità, diciamo, Perché lo dico? Perché c'è ancora qualcuno che sostiene che la ricetta con la Grecia ha funzionato. A me sembra che la Grecia invece abbia bisogno, lo dicono tutti, di una nuova tranche di aiuti. E che abbia funzionato che cosa, non lo so. Faccio notare che Lancet, che non è una rivista di carattere economico-finanziario, ma è la Bibbia della medicina americana, ha dedicato il suo numero di febbraio alla situazione sanitaria in Grecia. Allora, lo studio di Lancet andrebbe letto con attenzione anche in Germania, mostra come tra 2008 e 2012 il tasso di mortalità in Grecia nelle fasce di popolazione più anziana si è aumentato in modo significativo, con picchi del 12,5% tra le persone con oltre 80 anni, del 24% tra gli ultra 85 anni. In generale il 2012 è stato l'anno con il più alto numero di decessi in Grecia dal 1949, 116.000 morti. Un terzo delle morti, secondo Lancet, ripeto, la Bibbia della medicina americana, è una delle Bibbie della medicina a livello mondiale, secondo, dicevo, Lancet, un terzo delle morti è riconducibile ai tagli al budget pubblico per la sanità, che è stato decapitato 25% in meno, con l'effetto di far crescere del 47% la quota di cittadini privi di assistenza sanitaria. La mortalità infantile dal 2008 al 2010 è aumentata del 43% in Grecia. Allora, io dico una cosa: la Grecia truccò i conti e andava punita, e va bene, però l'abbiamo detto più volte, un conto è punire, un conto è umiliare, ma soprattutto chiedo alla Germania, capofila di quei paesi del rigore a tutti i costi, bisognava dare una lezione che valesse per tutti. Ricordate le frasi di Angela Merkel? Non è detto che un paese resti nell'euro, poi se la rimangiate rapidamente quando è partita la tempesta finanziaria sull'euro. Ma dico, questi dati diffusi da Lancet, che sono dati scientifici, dimostrano come non si sia punita la Grecia commissariandola sui conti e chiedendole un rientro. Qui si è andati a toccare, diciamo, l'esistenza stessa dei cittadini, e chiedo ai grandi soloni dell'Europa del rigore se questa è l'Europa che vogliono, in cui aumenta la mortalità infantile mentre diminuisce nei paesi in via di sviluppo, per fortuna, ma aumenta in Grecia, aumentano i decessi e in maniera non risibile, 24% degli anziani. E il 2012 è stato l'anno con la maggior mortalità in Grecia dal 49. Chiaro, non possiamo confrontarlo con il periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando i tedeschi erano ad Atene, ok? Però è questa l'Europa che volete? Spostiamoci agli svizzeri, perché c'era un bel libro una volta che si chiamava La Svizzera lava più bianco, che metteva in luce un po' di anni fa quanto la Svizzera, che da sempre ha questa reputazione di essere perfetta, pulita, efficiente, sicuramente lo sarà, ma voglio dire, poi sul fatto del riciclaggio può dare lezioni a tutto il mondo, eh? Perché lo dico? Perché la banca svizzera Credit Suisse ha aiutato più di 22.000 americani a evadere le tasse, cioè proprio non è che ha semplicemente raccolto il frutto dell'evasione, li ha aiutati a evadere con affermazioni false per la richiesta di visti, conducendo attività con i clienti negli ascensori e strappando documenti. Emerge dal rapporto della Commissione Permanente dell'Indagine del Senato americano, secondo la quale in un caso addirittura ha nascosto l'estratto conto di un cliente, e in moltissimi altri casi viene accusata la banca di aver aiutato i clienti a creare attività offshore per evitare le tasse e facilitare transazioni sotto i $10,000, soglia oltre la quale il governo può chiedere informazioni. Addirittura Credit Suisse ha creato un ufficio all'aeroporto di Zurigo, dove c'erano i conti di oltre 10.000 clienti americani, e i suoi banchieri hanno effettuato 150 viaggi negli Stati Uniti. Credit Suisse ha ammesso che alcuni dipendenti avrebbero favorito la frode fiscale negli Stati Uniti. È colpa di alcuni impiegati, mamma che coraggio da leoni, eh? È colpa degli impiegati che autonomamente hanno deciso di aiutare i cittadini americani a evadere il fisco americano, così, senza aver ricevuto neanche una circolare, neanche un'email, solo colpa dei dipendenti. Però è strana, perché la Svizzera, quando c'è da acquisire i soldi degli extra, dei non svizzeri, non ha problemi. Se devono entrare fisicamente il possessore di questi soldi, con l'ultimo referendum qualche problema ce l'ha. Ma guarda che strano tipo di selezione. I soldi vanno bene anche aiutando l'evasione dei cittadini di altri paesi, i cittadini di quei paesi che portano i soldi in Svizzera non vanno bene. Ma... dai, su. L'incontro tra Mario Draghi e Angela Merkel, sono entrambi interessati al rafforzamento e alla stabilizzazione dell'area euro, e questa sarà una parte centrale dell'incontro, da cui è uscito pochissimo perché è un incontro a porte chiuse. E mentre oggi l'Istat fotografa, per quello che riguarda l'Italia, un dato interessante sulle imprese, perché tra 2011 e 2013 le imprese vincenti, che hanno aumentato sia il fatturato interno che quello estero, sono state 4.600, il 18% del totale, ma allo stesso tempo il doppio, 9.100, hanno avuto ripiegamenti con ricavi nazionali ed esteri in ribasso. Le retribuzioni, sempre secondo l'Istat, sono cresciute l'anno scorso dell'1,4%, quindi un po' più dell'inflazione, mentre la Coldiretti oggi fa notare che 8 milioni e mezzo di dipendenti, scusatemi, nel mondo dell'agricoltura ma non solo, ma a livello generale 8 milioni e mezzo di contratti aspettano il rinnovo quest'anno. Siamo ai massimi dal 2008, sono praticamente due contratti su tre in questo paese che devono ancora essere rinnovati. Vedo molti che sono interessati ai dati sul comune di Roma. Adesso ci arriveremo. Dunque, c'è qualcuno che dice: lei è un qualunquista, immagino, sulla Grecia. Vabbè, però guardi che lo pubblica la rivista Lancet, ripeto, che è la Bibbia scientifica della comunità medica americana. Non lo pubblica, diciamo, un movimento politico greco. Su. Magari può dar fastidio, può dispiacere, qualcuno poteva pensare che fosse giusto agire così. Poi i dati sono dati. Dicevo, i dati del Comune di Roma, arriveremo a questo, faccio solo notare che ha chiuso il 2013 con un buco di 900 milioni di euro, un deficit di 900 milioni di euro, e ha un debito pregresso intorno ai 10 miliardi. Dico intorno ai 10 miliardi perché un calcolo vero e proprio sul debito del Comune di Roma non esiste. Chiudiamo con una notizia che è quasi amena, nel senso che noi abbiamo da sempre un appuntamento non fisso, però abbastanza frequente, con gli sprechi, le ruberie, le consulenze ingiustificate della pubblica amministrazione a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. Dico che fa quasi tenerezza quello che è successo a un consigliere comunale di Fondo in Trentino, perché è stato condannato a 3 mesi di reclusione per aver scassinato le macchinette del caffè. Lui andava alla macchinetta del caffè e rubava le monetine, 200 euro sottratti dai distributori di bevande del municipio. Comunque, insomma, rinvio a giudizio, 3 mesi di reclusione con rito abbreviato. Va bene, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo dalle proposte di Renzi, la quantificazione economica sta arrivando, le coperture ancora no, ma intanto qualche idea in più sull'ammontare di questa manovra per far ripartire l'economia, il neo presidente del Consiglio ce l'ha fornita. Allora, andiamo con ordine, perché bisogna fare un po' di ordine. Ieri sera la registrazione di Matteo Renzi a Ballarò dice: Non vi sarà solo il taglio dell'IRPEF per dare più soldi ai lavoratori e dell'IRAP per alleggerire il costo del lavoro delle imprese, ma anche un ragionamento sull'alleggerimento degli oneri sociali. Questo è il quadro per il taglio del cuneo fiscale, che, da come capisco io, prevede IRPEF, IRAP e un alleggerimento degli oneri sociali per le imprese. Le coperture, dice Renzi, arriveranno entro un mese. Vi saranno tagli alle spese della revisione affidati appunto a Marco Cottarelli, che è il commissario alla Spending Review, e risorse che arriveranno dagli accordi internazionali come quello con la Svizzera. Il cuneo fiscale è l'unico argomento che tu puoi avere. Sono su 10 miliardi più o meno. Sì, dopodiché puoi anche verificare. Sì, ci sono scuole di pensiero diverse. Padoan si è preso giustamente un po' di tempo per verificarlo e sarà il ministro dell'economia e delle finanze a discuterlo. Alcuni professori della Bocconi insistono su una percentuale più alta, non una percentuale, su un numero più alto, 20-23 miliardi. Ha letto quello che hanno scritto Alesina e Giavazzi. Però è il concetto di fondo che è molto importante, cioè. Cos'è il cuneo fiscale, che sennò sembra una roba piemontese? Il cuneo fiscale è semplicemente quello di cercare di mettere in tasca al dipendente qualche soldo in più e possibilmente di ridurre il denaro che spende l'imprenditore. Diminuendo la quota che va allo Stato. Ci sono tre modi per farlo. Il primo, a vantaggio dell'imprenditore, è abbassare l'IRAP. Questo vuol dire che il costo del lavoro è più basso per l'imprenditore. Sì. Il secondo riguarda solo il dipendente, è abbassare l'IRPEF. Sì. Quindi lei prende 1.300 euro, passa da 1.300 a 1.400. Il terzo, che è quello che su cui stiamo ragionando, non è il solo, è quello degli oneri sociali, che in qualche modo abbassare i contributi, diciamo. Diciamo che è un piccolo risparmio per l'imprenditore e un piccolo risparmio per il lavoratore. Quindi i tre aspetti, IRPEF, IRAP e gli oneri sociali. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento Guido Gentili, il nostro Caronte, assieme a altri colleghi. Oddio, Caronte forse. Vabbè, potevo usare la nostra guida nel capire, sì, che cosa meglio, dai, perché Caronte aveva un ruolo, so che non vorrei attribuirti. La nostra guida per capire come si stia articolando la manovra di Matteo Renzi assieme a altri colleghi del Sole 24 Ore. Allora, Guido, ascoltiamo però anche un altro passaggio, perché insomma i soldi, oltre a quello che lui ha detto su cuneo fiscale, IRAP e oneri sociali, l'altro grosso fronte rappresenta i debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese, perché quello vorrebbe dire buttare denaro nell'economia in senso positivo, ripaghi, esatto, le imprese. Sono 60 miliardi. Sentiamo come Renzi ha immaginato di sbloccare nell'arco di 15 giorni, con due emendamenti, i 60 miliardi bloccati per i debiti della pubblica amministrazione. La Cassa Depositi e Prestiti può aiutarci sostanzialmente a sbloccare cifre che, per quello che ci riguarda, sono leggermente più alte, nel senso che il margine che noi immaginiamo è di circa 60 miliardi di euro, per fare quello che ha fatto la Spagna. Lei ha seguito la vicenda spagnola, sì. C'era una situazione abbastanza simile. Mettendo immediatamente in circolo 60 miliardi di euro, sarebbero nel caso nostro, in Spagna mi pare fossero addirittura anche di più, l'effetto, virgolette, shock che si è verificato è un effetto benefico immediato. La Cassa Depositi e Prestiti farà due cose diverse. Uno, garantirà un fondo, diciamo, i fondi per aiutare, per agevolare la lotta al credit crunch. Due, attraverso il meccanismo che già è sostanzialmente utilizzabile nell'arco di 15 giorni con due emendamenti che noi abbiamo già pronti, che stiamo studiando con Del Rio e Padoan, permetterà di sbloccare i 60 miliardi che in questo momento sono fermi. Ma in che modo? Guardi, sono un emendamento già pronto, mi dia 15 giorni di tempo per presentarli. Allora, Guido Gentili, che come dicono gli ascoltatori è il nostro Virgilio, così va meglio che Caronte. Eccoci. Mi sembra che qualcosa inizi a delinearsi. Dico subito quello che continuiamo a ripetere da giorni. A me interessa che Renzi ce la faccia, non perché tifo Renzi, ma perché qua rischiamo veramente grosso sto giro. Per cui che uno voti o non voti Renzi, a me interessa che queste cose vengano fatte. I 60 miliardi agli imprenditori non hanno colore politico, la riduzione in busta paga di 500 euro non ha colore politico, va fatta comunque. Però mi sembra che Bassanini abbia detto: il nostro ruolo è solo sussidiario. Dopo la garanzia dello Stato, una volta garantita dallo Stato, verrebbero acquistati principalmente dalle banche questi crediti. Cioè, Bassanini è in linea con Renzi? Diciamo di sì, almeno in parte. Io vorrei ricordare su questo, perché l'esempio spagnolo poi non è stato chiarito da Renzi, che cosa è accaduto nel 2012 quando Madrid aveva anch'essa il problema di sbloccare i ritardati pagamenti degli enti locali e delle regioni accumulati a dicembre 2011. Allora in Spagna erano 35 miliardi di euro e io ricordo perché ne scrissi, perché la stessa Cassa Depositi e Prestiti aveva informalmente a quel tempo avanzato, diciamo, un'idea e di seguire appunto l'esempio spagnolo. Venne creata una, sostanzialmente una società veicolo che era dipendente dal, in Spagna, dal, dipendente dal Ministero dell'Economia, che metteva un prestito sindacato garantito dallo Stato per i 35 miliardi di ritardati pagamenti, che fu sottoscritto dai principali gruppi bancari pubblici e privati. A loro volta le amministrazioni locali si indebitavano a 10 anni con il fondo per saldare i debiti e dopo aver inviato le certificazioni dei crediti, e quindi in questo modo in pochi mesi furono sbloccati in Spagna 35 miliardi di euro. Questo è, diciamo, quello che è nella pratica diciamo, l'esempio spagnolo, che non fu seguito, come sappiamo, eravamo nel 2012, al tempo in cui peraltro la Spagna ottenne, diciamo, in sede europea più tempo, 2 anni in più per aggiustare il deficit. Non fu seguito questo esempio, non ci si riuscì col governo Monti, e poi il primo sblocco dei pagamenti lo abbiamo avuto in realtà con il governo Letta. Quindi credo che l'operazione che abbia in testa... Sì, anch'io ho capito così, cioè lo spiego a tutti, non vengono presi i soldi della cassa, esatto, del porto prestiti, perché esatto, c'è chi mi sta scrivendo giustamente, sono i soldi dei conti correnti postali. No, è diverso. Cosa, esatto, succede? La Cassa Depositi e Prestiti funge da garante attraverso lo Stato, per cui l'imprenditore può avere questi soldi attraverso, sì, l'acquisto viene dalle banche. Poi a sua volta il comune si impegna con la CDP e quindi con lo Stato a ripagare nell'arco, in caso spagnolo, di 10 anni, questo del comune o l'ente locale, la pubblica amministrazione, che ha con l'imprenditore. È un modo per accelerare, non so come dire, perché se tu aspetti che questi soldi... per sbloccare. Ma la CDP non va a mettere fisicamente, diciamo, lei i soldi, non è che levi, esatto, 60, esatto, miliardi di depositi degli italiani in conti correnti postali li dia alle imprese. Attenzione, fa da garanzia. Perché questo? Perché alle banche serve la garanzia dello Stato. Adesso sarebbe troppo complicato spiegarlo, però ha un rating, ha un voto molto alto per una banca, per cui la banca non deve accantonare tanto quanto accantonerebbe nei confronti di un altro soggetto. Okay? Allora a questo punto la banca ha la garanzia che questi soldi che sono dovuti all'imprenditore sono garantiti dalla CDP, ossia dallo Stato italiano. L'ho spiegata bene? O più o meno, sì, più o meno, sì, più o meno vicino, sì, no, perché il problema è non dare l'impressione che la CDP, la Cassa Depositi e Prestiti, tiri fuori i soldi e paghi le imprese con i risparmi postali degli italiani. Non avverrà questo, fa solo da garanzia, no? È come quando, esatto, tu vai in banca e dici: voglio un prestito, in cambio ho la garanzia, che cavolo ne so, del soggetto X oppure della mia casa, che potrò ripagarlo come garanzia per la banca. Ma in questo caso, essendo un soggetto pubblico, ha un rating, chiamiamolo così, molto alto, per cui la banca, per Basilea 3, queste grandi menate, non è obbligata a accantonare, quindi non ne ha un danno. Resta con noi Guido, perché ho il metro e la pubblicità, e poi torniamo al cuneo fiscale, e quindi riduzione delle tasse sulla busta paga, e al patto di stabilità interno, altro elemento su cui secondo me, in questo caso per esempio, la Lega ha ragione. Ci sono comuni virtuosi che hanno risparmiato, non hanno sprecato, non sono il comune di Roma, e non possono utilizzare i soldi che hanno per rimettere a posto un asilo, per fare lavori che poi fanno circolare i soldi, il denaro, perché sono bloccati dal patto di stabilità interno. 17:42 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sì, faremo questa compilation per l'estate delle basi di Focus Economia. La allegheremo a un quotidiano sulle 24 ore. Che devo fare? Dai. Detto questo, Guido Gentili, giustamente gli ascoltatori dicono sì, la Cassa Depositi e Prestiti è garante, il che vuol dire che però se il comune non dovesse poi pagare, ripagare la banca, verrebbero toccati i soldi, però è un po' diverso, nel senso che intanto sono il modello spagnolo, dico, erano 10 anni, e da qua 10 esatto. anni, uno esatto. due, il comune comunque è lo Stato italiano, detto in maniera un po' così forzata, ma è sempre lo Stato italiano, è così non è cavolo, forzato. Non è che stai parlando del comune, diciamo, di Lugano, con esatto. tutto il rispetto, visto che parlavo della Svizzera prima, per cui però attenzione, che non vorrei che si perdesse di vista l'obiettivo, se ci riesce Renzi. La scossa la devi dare adesso, non fra 10 anni. Fra 10 anni saremo tutti morti economicamente parlando, se continua così. Per cui la devi dare adesso. Poi, se l'economia riparte, le cose stabilizzano, con l'euro, dell'Europa parleremo dopo, tu puoi ripagare lentamente. Ma la scossa, che vuol dire sostanzialmente dare 60 miliardi alle imprese e agevolare il credito, perché di fatto magari l'impresa non riesce a ottenere i soldi dalla banca, ma almeno la pubblica amministrazione la ripaga e fai circolare 60 miliardi. Esatto. Che sono... sono 4 punti di PIL, esatto, prego. La Spagna ha ripagato 35 miliardi in 3 mesi, questo diciamo è ecco la domanda però vera che fanno molti ascoltatori è: ma perché non ci hanno pensato gli altri prima? Non ci hanno pensato gli altri prima, per la verità diciamo questo discorso innanzitutto è stato affrontato con ritardo nel 2012 dal governo Monti, perché io ricordo che di questo tema si è cominciato a parlare solo verso l'estate del 2012, dicendo che poi le cose sarebbero state pronte verso ottobre-novembre del 2012, cosa che ovviamente non è andata in porta perché poi si fermò tutto, diciamo così. Certo. E quindi abbiamo perso un anno, il 2012, su questo terreno, perché mi pare che su questo tema, diciamo, il governo, l'allora governo Monti non credeva molto no, allo sblocco di questa. No, ma non credeva, diciamo, non credeva molte cose il governo Monti, e questo l'ha pagato poi elettoralmente esatto. parlando. Vabbè, andiamo avanti col futuro, dai, c'è sempre un domani. Concentrarci solo sul passato. Questo è il fronte dei crediti alle imprese, che vuol dire buttare nel sistema economico, buttare in senso positivo, cioè incentivare per 60 miliardi in breve tempo il sistema economico, e che vuol dire altro che una manovra, sono 2/3 manovre assieme. Poi c'è il fronte cuneo fiscale. Renzi oggi da Treviso, al termine dell'incontro con gli imprenditori, ha chiarito cosa intende dire per 10 miliardi di riduzione del cuneo fiscale. Noi ridurremo di almeno 10 miliardi il cuneo fiscale. Come lo riduci può essere modulabile, mi spiego. Se tu riduci l'IRAP, cioè l'imposta sulle aziende, le aziende hanno immediatamente un elemento concretezza economica. L'IRAP vale oltre 30 miliardi in Italia. Se tu metti 10 miliardi sull'IRAP, riduci di un terzo più o meno l'IRAP alle aziende, ok? È un'ipotesi. Viceversa, se tu metti 10 miliardi in tasca al lavoratore, cioè come i lavoratori privati che non e pubblici che sono lavoratori dipendenti, con un piccolo sgravio IRPEF, se quei 10 miliardi vanno sullo sgravio IRPEF, è evidente che si trovano in tasca qualche decina di euro al mese, ovviamente a seconda di qual è il monte che puoi utilizzare, il monte massimo che puoi utilizzare per... è inutile che chi guadagna ai dirigenti della pubblica amministrazione tu dia lo sgravio IRPEF, lo puoi dare a un lavoratore, a un dipendente, a un operaio. Non abbiamo definito dove, quale delle due strade prendere, poi c'è quella degli oneri sociali, ci sono varie possibilità. Allora qui no, rido perché il tecnico di regia ha detto qui sembra un po' amici miei la supercazzola. No, adesso al di là delle battute, Guido, qui mi sembra che invece ci sia, non dico più confusione, ma quantomeno dove tagliare 10 miliardi sia ancora più aleatorio. Dunque, qui noi abbiamo un problema di coperture finanziarie Antani. Dell'operazione, punto primo. Punto secondo, abbiamo un problema di scelta su dove intervenire, e perché ovviamente in questo è stato chiaro, ci sono varie possibilità su dove, in quale campo intervenire. Quindi quanta parte eventualmente riservare allo sgravio che riguarda i lavoratori e quanta parte riservare alle imprese, allo sgravio in particolare per quanto riguarda l'IRPEF, e poi c'è il discorso sugli oneri sociali che gravano sugli uni e sugli altri. Quindi voglio dire, i soldi non sono tanti, i 10 miliardi visti così sembrano tantissimi, ma se vogliamo fare un'operazione significativa io credo che dovranno sforzarsi di concentrare, altrimenti ricadono nell'errore del governo precedente che, come è noto, li ha tentato di distribuire sull'uno e sull'altro fronte. Sì, e fu anche l'errore del governo Prodi, perché il governo Prodi, che ridusse il cuneo di 5 punti, però lo spalmò 3 punti alle imprese, 2 ai lavoratori, i lavoratori non si accorsero di nulla, poi aumentarono le addizionali e gioco, la fettata era fatta. Resta con noi ancora per qualche minuto. Ho le informazioni sul traffico, poi sentiamo Squinzi sul cuneo fiscale e l'ultimo aspetto di Renzi, il patto di stabilità interno per i comuni, perché qui l'edilizia scolastica, lo dicevamo ieri, è fondamentale, non solo perché siamo d'accordo che sia più importante la stabilità di una scuola che la stabilità dei conti, visto che ci sono i bambini dentro, ma anche perché le micro opere dell'edilizia pubblica hanno un effetto immediato sul ciclo economico, perché dai lavoro alle piccole imprese e quindi distribuisci i soldi in maniera diretta e immediata, per cui c'è un doppio fronte: oltre che di sicurezza dei figli e dei bambini a scuola, c'è anche il fronte minore, per carità, del rimettere denaro in circolo in maniera virtuosa e molto rapidamente. Era la condizione minima che noi chiedevamo. Torniamo al progetto per l'Italia che Confindustria ha presentato ai partiti lo scorso gennaio. Noi pensavamo che un intervento vero, forte, sarebbe stato più nell'ordine dei 20 miliardi. Peraltro noi indicavamo anche come e dove reperire questi fondi per fare questo tipo di intervento. Il 10 miliardi comunque è, io ne avevo parlato con l'allora primo ministro Letta e ne avevo sottolineato un po' come una necessità, quasi una linea del Piave. Era stato promesso almeno 5 con possibilità di avvicinarsi sulla base dei risultati della spending review, e in effetti alle imprese erano arrivate nella legge di stabilità 1,1 miliardi, ecco, quindi la nostra insoddisfazione è venuta da lì, insomma non c'è nessuna prevenzione contro il governo Letta, no? Così appunto il presidente di Confindustria oggi, Giorgio Squinzi, sui 10 miliardi, appunto definiti la misura minima. Un intervento forte sarebbe stato di 20 miliardi, abbiamo anche indicato a suo tempo come reperire le risorse. Ultimo aspetto, Guido Gentili, il patto di stabilità, ripeto, sbloccare i soldi che i comuni virtuosi hanno in cassa e non possono spendere. Brevissimo Renzi su questo. Abbiamo già spiegato che noi rispetteremo i vincoli modificando innanzitutto il patto di stabilità interno. Vi segnalo un punto che è emerso dalla discussione con i sindaci, che mi ha molto colpito. Il 70% dei sindaci con cui abbiamo parlato ci hanno presentato progetti pronti sull'edilizia scolastica, su cui non chiedono soldi al governo, no? Chiedono soltanto che si modifichi il patto di stabilità interna. Allora, anche qui so che l'obiezione è: ma perché non ci hanno pensato gli altri? Che ne sappiamo? Detto questo, Guido Gentili, poi arriveremo con Adriana Ceretelli al fronte europeo. Però questo è un elemento molto importante, perché vuol dire non toccare, diciamo, con nuovi finanziamenti i conti dello Stato. È vero che il patto di stabilità interno serviva a suo tempo per il conto complessivo del bilancio statale. Però voglio dire, se ne faccia una ragione anche l'Europa, andiamo avanti così. Mi sembra che se Renzi riuscisse in un tempo relativamente breve a fare questa operazione dei 60 miliardi di rimborsi sul modello spagnolo alle imprese che aspettano i soldi della pubblica amministrazione. Andare a fare un taglio di 10 miliardi di cuneo fiscale, anch'io sono dell'idea, concentrandolo però, non disperdendolo. E sbloccare il patto di stabilità interno, beh, non solo può rivolgersi all'Europa con un altro tipo di forza, ma svoltato sul fronte interno. Senza dubbio, innanzitutto voglio ricordare che quei 10 miliardi di cui ha parlato Squinzi non sono 10 miliardi casuali, nel senso che il rapporto Giavazzi del 2012 indicava in 10 miliardi l'ammontare dei trasferimenti dello Stato alle imprese, cosa che oggi ha detto Squinzi possiamo tranquillamente tagliare in cambio di mettere, diciamo, l'ammontare di questi 10 miliardi di trasferimenti alle imprese per il taglio del cuneo fiscale. Quindi fossi Renzi è uno scambio che prenderei al volo, diciamo così, per quanto riguarda l'azione del governo. Il secondo punto, quello del miglioramento del patto di stabilità, vorrei ricordare che già adesso ci sono dei comuni, a me risulta, che sono riusciti non a bucare il patto di stabilità, cioè spendendo in più rispetto a quello che avevano previsto, ma attraverso la sperimentale riforma della contabilità pubblica, che su questo fronte è già in corso, ci sono dei comuni che hanno già, cambiando il sistema di contabilità interna che poi dovrà essere approvata, credo, da tutti i comuni tra il 2015 e il 2016, hanno già operato in modo tale che possono finanziare senza chiedere nulla allo Stato le piccole cantierabili che sono già pronte. E questo credo che sia un terreno su cui si potrebbe continuare con maggiore forza. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di borsa e poi del Comune di Roma e di Bruxelles. Due precisazioni. Alcuni ascoltatori scrivono: ma le imprese quando devono fornire servizi al pubblico praticano prezzi più alti rispetto al privato? Ho capito, può essere vero. Però una volta che il pubblico fa l'accordo, poi deve pagare. Allora casomai sarà il pubblico che deve farsi pagare e deve ottenere prezzi di maggior vantaggio anche con acquisti collettivi. I vari centri di costo che esistono in questo paese, sono oltre 3.000 centri di costo in questo paese per l'amministrazione pubblica, è chiaro che, per cui su questo posso anche non avere problemi nell'ammettere che magari alcune imprese cerchino di ottenere prezzi più alti con il pubblico, ma poi è il pubblico che deve dire di no e far abbassare i prezzi. Tra l'altro, a questo proposito è appena arrivata la notizia che il comune, anzi la ASL di Gorizia, ha invitato i responsabili e i conducenti dei mezzi aziendali a privilegiare il rifornimento in distributori sloveni poco oltre il confine. Questo perché arrivano meno soldi alla struttura sanitaria, all'azienda sanitaria di Gorizia, e quindi per contenere i costi relativi ai carburanti è più vantaggioso fare benzina in Slovenia. Certo che a Gorizia si può fare, se abiti all'Aquila, a Ravenna o a Potenza inizia a essere meno conveniente. La borsa oggi tutta in linea: meno 0,37 Milano, meno 0,39 Francoforte, meno 0,40 Parigi, meno 0,24 Londra. L'America guadagna lo 0,24%. Nel giorno in cui abbiamo collocato i bot a 6 mesi come Italia, 8 miliardi e mezzo a un minimo storico rendimento, lo 0,45%, 0,455%. È un minimo storico, questa è una buona notizia, vuol dire che da quando esiste l'euro non avevamo mai pagato i bot a 6 mesi meno dello 0,5% come rendimento, vuol dire che ci costa meno trovare finanziatori per il nostro debito. Ciao Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Rapidi, ST Microelectronics più 4,50%, Prismian più 2,90%, Unipolsai più 2,50%, Buzzi Unicem più 2%, Fiat più 1,90%, poi c'è Autogrill più 1,60% come il Banco Popolare. Vorrei concentrarmi su ST Microelectronics, Prismian, Banco Popolare e Fiat. E Fiat, sì. velocemente STI è la migliore del listino, c'è più ottimismo sul mercato europeo per un'eventuale ripresa dei chip, lo ha dichiarato anche Paul Grimm, che è il capo di STI per l'Europa, proprio oggi, e non è un caso che insieme a STI salgano tutti i principali titoli europei del settore oggi. Per quanto riguarda Prysmian, c'è l'ottimismo del mercato all'indomani dei conti 2013 che sono stati diffusi ieri, conti diciamo in leggera flessione, ma comunque i vertici del gruppo hanno deciso di lasciare intatto il dividendo rispetto all'anno scorso, segno questo di fiducia per quest'anno. Per quanto riguarda Fiat invece c'è una valutazione positiva di Mediobanca, la cosa interessante è che si dice sul mercato che Fiat debba rafforzarsi dal punto di vista patrimoniale dopo aver rilevato tutta Chrysler. Mediobanca ipotizza diverse strade, tutte praticabili per farlo, da un aumento di capitale a un convertibile, oppure alla quotazione in borsa di Maserati o alla cessione della Ferrari, magari la stessa Exor che è la controllante di Fiat. Infine il Banco Popolare guadagna l'1,6%, domani il Consiglio di amministrazione approverà i conti 2013 e il nuovo piano industriale. Sul fronte opposto c'è invece Telecom Italia che perde il 2,80%, di nuovo la Telecom Novella, come l'avevamo chiamata? La Telecom Novella? Sì, allora, meno 2,80%, qui c'è un giudizio anche di una banca svizzera, Mediobanca meno 1,80%, Atlantia meno 1,40%, Azimut meno 1,1% come Unicredit. Telecom. E Telecom alla vigilia di un altro CDA che affronterà il nodo della riforma della governance. Come dicevi tu, UBS ha ribadito la propria raccomandazione a vendere il titolo. Ricordiamo tuttavia che lo stesso titolo di Telecom è cresciuto molto, era arrivato quasi a ridosso di 0,9 euro. Nei giorni scorsi, nelle ultime settimane, erano entrati molti fondi, possibile che qualcuno abbia deciso di realizzare i guadagni effettuati. Mediobanca, dicevo, meno 1,80, Atlantia meno 1,40, Azimut meno 1,12. Per quello che riguarda poi il gruppo De Benedetti, oggi ci sono novità perché è salita Sogefi, se ho ben visto, e invece male l'Espresso dopo i conti pubblicati ieri. In assoluto Meridi SPA, miglior titolo, più 22%, La Doria più 12, Eukedos più 15,80, Nova Re più 13,70. Fronte opposto invece, Grandi Viaggi meno 10,40, Banca Profilo meno 6,30, Eurotech meno 5%. Grazie a Ceo Condi, a Radio Cori, Sole 24 Ore. E noi adesso andiamo, un volo non tanto pindarico, dal Comune di Roma a Bruxelles. Perché? Perché, ripeto, le manovre che Renzi ha annunciato, vediamo se riuscirà a fare nei tempi, soprattutto che ritiene, servono per andare a Bruxelles e dire: noi facciamo queste operazioni per far ripartire l'economia e tu ci dai più tempo sul deficit. Certo che però poi anche Bruxelles qualcosa da obiettare ce la potrebbe avere su come noi stiamo, per esempio, cercando di salvare il Comune di Roma, che è tecnicamente in bancarotta. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, il Comune di Roma ha chiuso il 2013 con un deficit di quasi 900 milioni di euro. C'è chi dice che in realtà il miliardo sarebbe già stato raggiunto. Ha un debito pregresso intorno ai 10 miliardi, anche perché un calcolo preciso non esiste. Oggi il governo ha rinunciato al decreto Salva Roma, ha detto il ministro Marilena Boschi che arriverà un nuovo provvedimento dopo una valutazione dei contenuti, conterrà anche le norme sull'Expo e sulla Sardegna. Marino, il sindaco di Roma, Ignazio Marino, molto arrabbiato, dice: io non farò il commissario liquidatore del comune. Ma insomma, come mai il blocco e che cosa potrebbe contenere di nuovo questo decreto? Beh, oddio, il blocco peraltro siamo già al secondo, perché sì. Il primo Salva Roma era caduto tra Natale e Capodanno sotto le obiezioni del Quirinale. Il problema è che il secondo decreto, qui si parlava della conversione in legge, c'era tempo per convertirlo in legge fino al 28, cioè fino a venerdì. L'ostruzionismo dei 5 Stelle e della Lega avrebbe reso impossibile arrivare all'approvazione in tempo, e quindi si è caduti ancora una volta. I provvedimenti del decreto Salva Roma, che in pratica fanno passare dalla gestione commissariale alla gestione del comune, quello straordinaria un po' di risorse, si è appoggiato il bilancio preventivo 2013 del Comune di Roma, approvato a novembre. Se saltano le norme, saltano evidentemente anche i presupposti su cui si era fondato quel bilancio, per cui la prima cosa da fare sarà probabilmente un decreto, probabilmente già domani, per dire che gli effetti dei rapporti giuridici intercorsi, insomma, per parare formalmente il bilancio del 2013, ma andando nella sostanza significa che il Parlamento ha tentato due volte, Governo e Parlamento hanno tentato due volte senza successo di salvare dal default, dal dissesto il Comune di Roma, e non ce l'hanno fatta, e quindi ora c'è un terzo tentativo in corso, non tanto con strumenti nuovi, però non puoi più fare un decreto legge, anche perché il Quirinale al terzo, insomma, si scoccerebbe abbastanza. Beh, diciamo che non te l'ha mandata a dire, come dicono a Roma. Allora, io capisco anche il sindaco Marino, che da poco è arrivato e non vuole fare il commissario liquidatore, però, caro sindaco, vorrei tornare sul tema dell'ATA, che non per gli scandali che hanno, su cui indaga la magistratura, ma per il fatto, mi scrivono alcuni ascoltatori, guardi che gli autisti dell'ATA hanno in media circa 2 anni di ferie non godute, mi sembra un po' tanto, però, per mancanza di personale, essendo il nostro un lavoro usurante. A noi risulta un'altra cosa, che tra gli autisti dell'ATAC, l'azienda del trasporto pubblico di Roma, vi siano molti casi dei cosiddetti liberi con paga, cioè sono conducenti che, pur essendo di turno, restano a casa perché non ci sono i mezzi a disposizione, perché in manutenzione. Ma soprattutto vorrei chiedere al sindaco e ai sindacati che rappresentano i lavoratori dell'ATAC se è accettabile, come buon senso, che ogni giorno vi siano 1.400 dipendenti su 12.000 che stanno a casa col certificato medico, pure i medici. Ok, sono 6.500 autisti al giorno, ne restano a casa 970, su 1.300 amministrativi ne restano a casa più di 100, su 3.000 operai più di 300. Chissà perché i macchinisti della metropolitana, dei tram, che hanno un contratto legato alle presenze, risultano tra i più presenti. Vogliamo parlarne di questo? Vogliamo parlare degli autisti che hanno chiesto la inabilità alla guida, passati da 50 a 607, ossia il 10% del totale? Faccio notare che l'ATAC è costata in 10 anni 6 miliardi e 400 milioni tra perdite e contributi pubblici, non ha mai chiuso in 10 anni un bilancio inutile, e non più tardi di 2 anni fa è stata ripatrimonializzata per 1 miliardo. Altri 2 anni come quello che si è appena chiuso e toccherà buttarci un altro miliardo dentro. L'aumento del biglietto, che penalizza i cittadini da 1 euro a 1,50 euro, non ha prodotto risultati, anche perché i controllori all'ATAC su 12.000 dipendenti, i controllori sono 70. Allora Gianni, forse anche partire da lì, perché sennò continuiamo a ricapitalizzare il Comune di Roma come avvenne col Comune di Catania, prego. Sì, Marino si è trovato gran parte, direi quasi tutto il pacchetto. È vero, ringrazia Alemanno e i sindaci precedenti. E anche i predecessori. E i precedenti, ho detto, infatti. Il primo salvataggio dal dissesto è stato nel 2008, quando si è creata la gestione commissariale parallela al Comune ordinario, perché mandare in dissesto Roma, diciamo, anche un... Chi era il sindaco lì, Veltroni o Rutelli ancora? 2008? No, era Veltroni. Diciamo, il punto sostanziale è che in questo momento la capitale del paese è praticamente in dissesto, deve essere tirata fuori dal dissesto per i capelli, non ha una discarica perché Malagrotta ha finito i suoi decenni di onorato servizio in deroga a infinite leggi, quindi non ha una discarica, ha il sistema delle partecipate che tu descrivevi e come dire, mancano al momento contromisure che sembrano minimamente... Ma commissariate, invece che piazzare gli amici del sindaco di turno, non nel caso di Marino, ma insomma c'è un'inchiesta su questo, commissariate l'ATAC, basta, cioè, non possiamo continuare a buttare... Abbiamo appena fatto un ragionamento sui comuni virtuosi che hanno i soldi bloccati per le opere di manutenzione degli asili, che servirebbero a tutti, alle ditte dell'edilizia, ai bambini che ci vanno, a far ripartire un po' l'economia, basta buttare i soldi nel Comune di Roma. E poi qualche azione di responsabilità con i vecchi sindaci si potrebbe anche prendere ogni tanto nella vita, perché è inaccettabile avere 10 miliardi di buco. Ma che sei, uno Stato, per avere 10 miliardi di buco accumulato? Grazie a Gianni Trovati. Io credo che sarebbe importante negoziare per il nostro paese, senza voler eliminare questo vincolo del 3% sul debito pubblico, chiede andare a chiedere qualche deroga per investimenti produttivi, investimenti sulle infrastrutture, investimenti per ricerca e sviluppo, per tutto ciò che crea occupazione, che io ritengo sia fondamentale per l'Italia in modo particolare, ma anche per tutta l'Europa, che non dimentichiamoci che in questo momento è tutta l'Europa che è l'area economica mondiale che sta performando peggio in assoluto, e noi dobbiamo probabilmente rifare mente locale a quelli che erano alcuni dei punti fondamentali, peraltro molto disattesi poi nell'applicazione pratica del Trattato di Lisbona, dove si diceva che l'Europa doveva investire il 3% in ricerca e innovazione, dovevano essere realizzati tutta una serie di programmi infrastrutturali sul nostro paese, su tutta l'Europa. Ecco, noi dovremmo chiedere una deroga al limite del 3% per poter investire su questo. Così oggi il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore per i temi dell'Europa, buonasera. Buonasera. Domanda molto semplice per te: se Renzi riesce a fare quello di cui abbiamo parlato nella prima parte del programma, quindi cuneo fiscale 10 miliardi, 60 miliardi di rimborso alle imprese che li aspettano dalla pubblica amministrazione, e poi lo sblocco del patto di stabilità interno, cioè segue in parte il modello spagnolo, in parte no, ha possibilità, visto che oggi ha detto andrò da Angela Merkel con il Jobs Act pronto il prossimo 17 marzo, ha la possibilità di ottenere dall'Europa quello che chiede Squinzi, e cioè che alcuni investimenti che fanno ripartire l'economia possono non essere considerati nel calcolo del deficit perché sono investimenti e non spese? Ma io credo che andare il 17 marzo dalla Merkel sia un'ottima idea, ma sia prematuro per immaginare di ottenere un via libera all'uso della clausola degli investimenti e quindi a più margini di manovra sul bilancio. Del resto ieri la Commissione europea ha pubblicato le previsioni economiche e si sperava che ci fosse un segnale in questo senso, invece il segnale che è arrivato è tutt'altro. Olli Rehn ci ha detto che, viste le dimensioni del nostro debito che cresce, dobbiamo aumentare gli sforzi per diminuirlo. Quindi direi che è un segnale esattamente all'opposto. Questo non significa naturalmente che noi non possiamo chiederlo e nessuno ci vieta di sfondare il 3% del deficit, perché non c'è scritto da nessuna parte, però se lo sfonderemo naturalmente ci apriranno una procedura per deficit eccessivo, e questo vorrà dire che per la prassi prevista, per le regole previste, la Commissione ci chiederà di negoziare, come ha fatto con tutti, un patto di un accordo, sì, un patto per rientrare sotto il deficit sotto il deficit del 3%, e questo naturalmente significherà che ci imporrà delle condizioni, una tabella di marcia di riforme. Perché tu oggi appunto dici su Sole 24 Ore le credenziali vengono solo dalle riforme, cioè l'idea, esatto, che se noi portiamo un pacchetto di riforme vere, no, cioè non se portiamo un pacchetto di riforme, se facciamo, se di farle, sì, riforme. Ecco, volevo dire, hai ragione, se faccio, che pacchetti ne abbiamo visti tanti, pacchi, esatto, pacchetti contro pacchetti, ma l'Europa non ha mai visto i risultati, esatto, per questo se... che ti dice beh falli e poi discutiamo. E qui diciamo, andiamo a chiudere da dove siamo partiti. Le riforme che Renzi vorrebbe fare, e noi ci auguriamo come italiani, non me ne frega nulla di cosa vota uno, perché sono riforme necessarie, aggiungo anche la riduzione della burocrazia per le imprese, se vogliamo dirla tutta, e continuare con la lotta all'evasione. Ma dico, le riforme sull'IRPEF, sul cuneo fiscale, sull'IRAP, i soldi alle imprese e appunto lo sblocco dei comuni virtuosi, dei soldi che i comuni virtuosi hanno in cassa, se attuate, permettono, se ho ben capito Adriana, di dire all'Europa: noi questo abbiamo fatto e miglioreremo la crescita economica, quindi tu dacci a questo punto maggiore flessibilità, ho capito bene? Beh, dunque, innanzitutto quello che chiede l'Europa da sempre al primo posto è la riforma del mercato del lavoro. Quella che è stata fatta non è ritenuta una riforma soddisfacente, d'altra parte, come si vede, la disoccupazione purtroppo resta quella che resta. L'altra cosa che loro ci chiedono è una riforma della pubblica amministrazione con taglio della spesa pubblica, perché dicono che la pressione fiscale in Italia è molto alta, va benissimo naturalmente spostarne il carico dal lavoro alle rendite, cioè alle rendite, ma è comunque alto il carico, e per naturalmente diminuirlo senza andare a sfondare i parametri che già sfondiamo sul debito, non si può che tagliare la spesa pubblica. L'altra cosa che ci chiedono appunto è la sburocratizzazione, l'altra è una giustizia che funzioni maniera da non ostacolare l'economia, la crescita, gli investimenti e compagni. Quindi sono riforme di sostanza. Di sostanza e strutturali. Però insomma, mi interessava far capire a tutti: è vero che poi alcune hanno tempi più rapidi, altri tempi più lenti, però che le due cose si tengono, il fronte interno si tiene con quello che poi è la tua forza sul fronte esterno, cioè quando vai a Bruxelles. Adriana, torneremo su questo. Grazie all'editorialista del Sole 24 Ore, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo alle 17 di domani con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.